140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie e il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Universal Music, Milano. Il suo disco ha un titolo che può suonare presuntuoso, Dio, ma con l'apostrofo. Torna Dargen D'Amico. Ero ben conscio del rischio, però del rischio di risultare presuntuoso, che però mi sembrava veramente sproporzionato infinitesimale rispetto alla possibilità di chiarire quella che era stata per me un'illuminazione. Mi sono reso conto, guardando a quello che avevo fatto fino ad oggi, che nella mia realtà artistica c'erano questi due poli e io continuavo a passare da un polo all'altro. Uno era quello della personalità personale, particolare, mio, domande che mi ponevo, e dall'altra parte c'era il tentativo di arrivare ad una risposta unica, una unità universale, e quindi la spiritualità, Dio. Capito, l'occasione di unire queste due cose in un titolo, in più c'era pure l'apostrofo che rappresenta una caratteristica del cognome di questo progetto, era un'occasione gigantesca, non potevo pensare al rischio di passare per presuntuoso, anche perché poi nella realtà dei fatti sono presuntuoso, quindi non sarebbe un rischio così pericoloso. Abbiamo lavori che durano un weekend, abbiamo amori che durano un weekend, e weekend che durano una vita, push ravidi, incubi senza una via d'uscita, pasticche sommergibili e navicelle per andare a mettere ordine tra le stelle, lunatici dopo un viaggio sulla luna, ti ricordavo meno stronza, dai fammi fumare, buona fortuna, e non c'è niente di vero e purtroppo è tutto vero, la Via Lattea è là ma non puoi berla. Abbiamo perso il sentiero, le stelle sono là, le stelle sono l'acne del cielo. È finito il tempo per parlare, la mia generazione non ha futuro, ma ancora voglia di ballare, qui disposte i mobili contro il muro. È finito il tempo per parlare, la mia generazione non ha futuro, ma ancora voglia di ballare. Ballare, ballare. La dichiarazione d'amore per Milano è bella. Milano è stata cantata da alcuni dei più grandi. Esatto, una bella sfida. Ci tengo anche, lo sottolineo anche all'interno del brano, so esattamente di essermi inserito in un filone che è già stato largamente trattato anche in maniera monumentale da artisti che hanno cambiato la musica italiana, quindi so benissimo che sono certo di uno di quelli che ha cambiato e cambierà la musica italiana, semplicemente ho cercato in questo momento in cui sono ben presenti gli stimoli rispetto a questa città, perché se ne parla molto in Italia, quindi mi sono sentito davvero che fosse il caso di dare un pochino liberamente sfogo a quelle che sono state le cose che mi hanno segnato di più da quando sono nato di questa città, le cose che mi sono rimaste intrappolate nella mente, negli occhi, quindi ho cercato di restaurare un pochino l'immagine, questa immagine triste e sorridente di questa città che ha sempre qualcosa da fare, che però può essere noiosa, piena di vitalità ma morta. Ecco, questo era il tentativo, se non è facile descrivere realtà così complesse come quella di una città come Milano, tanto amata, odiata anche dai milanesi ma dagli italiani. Ti dico, mi sento veramente fortunato ad aver avuto la possibilità di imparare a scrivere in questa città, perché velocizza dei processi che se io magari avessi vissuto al mare, con questo massaggio dell'aria marina, o in montagna, respirare aria buona, probabilmente starei meglio come persona, ma non riuscirei a scrivere. Perché ci trovi tutti i colori, gli esseri umani, i lavori, che sia bianco, che sia blu, che sia verde, che sia nero, basta che sia di nero. Amo Milano perché è la capitale morale del commercio immorale. Amo Milano perché ti consegna tutto a domicilio, il cibo, le donne, un figlio. Amo Milano perché mi deprime ad un livello costante come un mutuo per le mie rime. Portami dove non passa nessuno e baciami solo. Sei l'unico che ha confessato io sarei andato a Sanremo. La mia volontà era quella che sarei, la mia volontà era quella, l'ho anche espressa, neanche troppo timidamente, molto educatamente invece mi hanno fatto capire che per me quest'anno non c'era spazio, ecco, perché poi sai, ci sono anche delle dimensioni, bisogna stare all'interno di quelle dimensioni, nelle dime, e il mio discorso era un po' fuori dima, però sì, avrei... Per la prima volta nella mia vita avrei partecipato, ti dico allegramente, cosa che non sono mai allegro nella vita, invece proprio questa voglia allegra un po' da gita, di andare a Sanremo, vediamo cosa succede, e di capire anche di ricevere il giudizio di Sanremo, perché sarebbe fondamentale anche come a livello di analisi psicologica, cioè quello che ti dice Sanremo è un po' quello che ti direbbe un analista, cioè ti fa capire delle cose di te, ecco. Non ho avuto questa occasione, meglio così rimango sul vago su me. Beh, speriamo che non ti passi questa voglia gli anni prossimi. Speriamo. Anzi, rinnovo tipo la mia offerta subito, appena finito Sanremo. Tra i primi, così magari mi tengono. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Dargen D'Amico. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter, @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.